Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Io sono un uomo che è diventato testardo a furia di combattere contro le azioni che sono state compiute contro di me e non ho mai perso né il coraggio né la speranza, quindi io mi batterò per ottenere un equo risarcimento. Ho già fatto alcune riunioni con i miei legali che mi hanno dato una indicazione molto precisa sulla possibilità di fare un'azione legale che io intraprenderò, perché non si può togliere l'onore, ma non si può nemmeno togliere e espropriare del proprio patrimonio un uomo e poi farla franca. Un'azione legale contro chi? Contro gli eredi di coloro che acquisirono il mio patrimonio per pochi spiccioli. Quindi coloro i quali appunto entrarono nel controllo della Rizzoli, all'interno della quale, ricordiamolo, c'è anche certo il Corriere della Sera, nel momento in cui lei fu colpito da questo mandato d'arresto. Approfittando del fatto che i miei beni erano stati sequestrati, l'operazione che fu fatta ai miei danni oggi non sarebbe più stata possibile, perché 20 anni fa il codice penale è stato modificato nel senso di dare più tutela al proprietario dei beni, eliminando sequestro e custodia giudiziaria, che sono quelli che hanno fatto tutta l'operazione di svendita del mio patrimonio. Angelo Rizzoli annuncia di voler passare al contrattacco con la determinazione, dice, sviluppata in questi 26 anni di vicende giudiziarie, ora che la Cassazione ha cancellato la condanna a 3 anni e 4 mesi per bancarotta, lui vuole rimettere i puntini sulle i sulla storia sua e di quell'impero editoriale che il nonno aveva fondato. Lui, Angelone, quel ragazzo che 30 anni fa si ritrovò nel mezzo di intrighi finanziari e politici tra Gelli e Calvi. Alla ricerca di finanziatori per il Corriere della Sera, finì per essere coinvolto nello scandalo della P2 e poi in carcere per 13 mesi, perdendo tutto, dalla moglie Eleonora Giorgi che lo lasciò, alle amicizie, alla casa editrice che porta tuttora il nome di suo nonno, cioè il suo, anche se lui, in via Angelo Rizzoli a Milano, non ha più rimesso piede. Ora ha una seconda moglie, un nuovo lavoro da produttore televisivo e la voglia di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Angelo Rizzoli, a chi o a cosa ha pensato nel giorno in cui la Cassazione definitivamente poneva termine, dopo più di 2 decenni, alla sua vicenda giudiziaria, cancellando quella condanna a 3 anni per bancarotta? Il mio primo pensiero è andato ai miei morti, a quelli che in parte anche a causa di questa vicenda hanno sofferto e sono morti. Penso a mio padre, che è morto di infarto poche settimane dopo il mio arresto nel 1983. Penso a mia sorella Isabella, che è stata indagata, che è stata sequestrata dei beni e le è stato tolto il passaporto e che per disperazione si è suicidata buttandosi dalla finestra. Un pensiero anche a suo nonno, di cui lei porta il nome. Sicuramente mio nonno ha sempre avuto grande fiducia, grande stima e grande affetto per me e io in qualche modo con questa vicenda so di avergli dimostrato che la sua fiducia era ben riposta. Io sono sempre stato profondamente orgoglioso del nome che porto, perché è il nome della più grande industria culturale italiana. Mio nonno è l'uomo che ha creato la cultura popolare in Italia, sia attraverso i giornali, che attraverso i libri, che attraverso i film. Mio nonno è stato un uomo che ha fatto grandi cose per il paese, pensi solo alla nascita di Ischia e alla ricostruzione di Marzabotto, distrutta dai nazisti, che deve la sua ricostruzione e il suo lavoro alla cartiera, alle case degli operai costruiti da mio nonno proprio nell'ottica di restituire a quella popolazione fiducia e speranza nel futuro. Come si sente chi si trova ad avere un impero, ad essere stato colui a cui comunque di fatto gli si è sgretolato tra le mani tutto questo e poi ora ad aver avuto una, possiamo chiamarla, riabilitazione? Io, diciamo, ho sempre vissuto fin da ragazzino con l'imperativo categorico di essere all'altezza del nome che portavo. Tutti i miei studi sono stati indirizzati verso l'attività di editore. Sono andato in America alla Columbia University a prendere il PhD in un corso all'epoca celebre che si chiamava The Modern Century, tenuto dal mass mediologo Northrop Frye, in cui si faceva il racconto dello sviluppo dei media nel XX secolo. Mi ha rimandato in Italia con la forte consapevolezza che quello, il XX secolo, era il secolo dei media. Dopodiché sono diventato, da un punto di riferimento nella città, considerato un giovane talento. Ancora oggi i miei amici e le mie amiche dicono: ma eri la persona da cui ci si aspettava di più. Mi sono sentito invece come un appestato. 26 anni dopo, questa situazione di appestato è stata cancellata, ma non soltanto dalla sentenza della Cassazione, è l'ultima decisione a me favorevole, ma ce ne sono state altre 5 prima. Cioè, io ho avuto 6 procedimenti penali e ne sono uscito non colpevole da nessuno, da tutti e 6. Ha parlato di bancarotta impropria. Sono i magistrati di Milano, non sapendo come qualificare una ipotesi di reato tecnicamente, per attribuire il reato di bancarotta occorre o una dichiarazione di fallimento o almeno una dichiarazione di insolvenza, che avrebbe portato poi all'amministrazione straordinaria, ex legge Prodi, oggi legge Marzano. Certo. La Rizzoli Editore non ha mai avuto né una dichiarazione di insolvenza né tantomeno una dichiarazione di fallimento. Quindi la bancarotta era improponibile. Per questo ci si è un po' arrampicati sugli specchi per definire quella una bancarotta impropria legata a una fase dell'amministrazione controllata avvenuta 10 anni prima del processo e conclusosi in bonis, cioè col soddisfacimento totale dei creditori. Noi abbiamo fatto fare uno studio dei miei legali. C'è stato un unico caso in cui l'amministrazione controllata ha dato luogo a una vicenda di bancarotta. L'unico caso è il mio. Adesso la situazione è stata ripristinata, non c'è stato nessun fallimento, non c'è stata nessuna situazione di insolvenza, ergo non c'è stata nessuna bancarotta. C'è chi dice che il suo più grande errore è stato quello di non accontentarsi del pacchetto di controllo, ma di volere per sé il 100%. Lei identifica nell'acquisto del Corriere della Sera l'inizio, diciamo, allora, della parabola discendente? Allora, nella trattativa per l'acquisto del Corriere della Sera non sono entrato per nulla, perché all'epoca era vivo e attivo mio padre. Ha condotto lui la trattativa con Angelo Moratti, che era prestato presidente dell'Inter quando lui era presidente del Milan, con la signora Giulia Maria Crespi, con l'avvocato Agnelli. Io ero un ragazzo di 30 anni che si è trovato poi a gestire questa situazione. Successivamente, quando mio padre ha cominciato a essere sofferente di cuore e a non poter più seguire gli affari dell'azienda, questo carico difficile e complicato, perché il Corriere della Sera aveva addosso gli occhi e le mani delle forze politiche, questo ingrato compito è passato a me. Ben più di recente una operazione diversa, ma comunque con obiettivo il Corriere della Sera, l'ha tentata un immobiliarista romano, Stefano Ricucci. Lei ha seguito questa vicenda? La mia famiglia era la famiglia regina dell'editoria italiana. Io l'ho seguita con profondo distacco, perché non conosco Ricucci, e francamente ho sempre avuto forti perplessità sul fatto che, essendoci un patto di sindacato così forte, si potesse arrivare a scalare in quel modo il gruppo. Però, siccome non sono cose che mi riguardano più, ho fatto semplicemente lo spettatore. Cerca di informarsi circa la situazione finanziaria o gli sviluppi della casa editrice Rizzoli, pur non essendone coinvolto, oppure no? Io non ho mai né telefonato né chiamato nessuno, non sono mai più tornato né a via Rizzoli né a via Solferino, proprio per non suscitare o alimentare chiacchiere. Questo non toglie che io vengo informato, perché all'interno dell'azienda vi sono ancora molti che hanno lavorato con me e che mi telefonano, che mi informano, ma io non ho mai più svolto alcun ruolo se non quello di essere custode delle informazioni, delle lamentele, delle proteste o piuttosto degli sfoghi di alcuni tra dirigenti e direttori che hanno la gentilezza di telefonarmi. Non è mai stato nei suoi progetti anche l'idea, se mai ce ne potessero essere le condizioni, di acquisire qualche testata dei periodici della Rizzoli? Anni fa si era parlato della possibilità che io acquisissi alcune testate che la Rizzoli voleva mettere in vendita, però la proprietà dell'azienda pose il veto perché non volevano che io, magari ottenendo un successo, facessi ombra all'operazione di riacquisto che era stata fatta proprio ai miei danni. Quindi l'operazione non è proseguita. E in futuro? Come dice uno dei miei avvocati, la vera imputazione che io ho avuto è stata quella di essere il proprietario del Corriere della Sera. 3 mandati di cattura, 6 procedimenti penali, finiti tutti in nulla, perché la vera accusa nei miei confronti era quella di essere il proprietario del Corriere della Sera. Allora, errare è umano, ma perseverare sarebbe diabolico. Ha mai pensato ad una produzione sulla storia della sua famiglia? Io non riesco a vedere con distacco la mia storia, il carcere che ho avuto, la malattia di cui ho sofferto e soffro, il fatto che mi abbiano portato via tutto, che abbia dovuto investire 26 anni della mia vita e molti milioni di euro in spese di avvocati per potermi difendere. Non riesco a pensare con distacco al fatto di aver perso mio padre e mia sorella in questa vicenda. La storia della mia famiglia avrei potuto raccontarla Indro Montanelli, di cui noi siamo stati gli editori fin dal suo primo libro nel 1936. Storielle. Storiacce. Ha annunciato di volersi battere per un risarcimento e ora, incassata la conclusione definitiva dei suoi 6 procedimenti giudiziari, Angelo Rizzoli ripercorre con più serenità e distacco la sua storia, la storia di quel colosso editoriale che il nonno aveva creato e che poi lui ha perso dopo 13 mesi di carcere, una storia che ha incrociato anche quella di alcuni scandali italiani, dalla P2 al Banco Ambrosiano. Lei ha raccontato che Montanelli è stato una delle 3 persone che le ha scritto mentre era in carcere. Un altro è stato Berlusconi. È vero, Montanelli mi ha scritto e è venuto a trovarmi in carcere. Forse l'unica persona, oltre a mia madre, che è venuto a trovarmi in carcere. E Berlusconi mi ha scritto e, devo dire, mi ha sempre aiutato. Io gli devo molto, questo non lo dimenticherò mai. Lei ha raccontato del suo incontro con Silvio Berlusconi nel momento in cui aveva i suoi progetti nell'edilizia e ha detto anche che era venuto da lei nel momento in cui c'era una campagna contro questi suoi progetti. Sì, lui stava progettando Milano 2 e il Corriere d'Informazione, che era il quotidiano del pomeriggio e il Corriere della Sera, aveva fatto una campagna mossa da alcuni sindaci dell'Interland milanese per rallentare la costruzione di Milano 2. Quando parlai con Berlusconi, fui talmente convinto del suo progetto che la periferia non fosse solo una zona di degrado, ma ci potesse essere, come nella periferia di Londra, una zona di città-giardini in cui potessero andare ad abitare le persone anche del ceto medio. La sua proposta fu così convincente che io chiesi al direttore dell'Corriere d'Informazione, che all'epoca era Cesare Lanza, di cessare questa campagna contro Milano 2, cosa che fu fatta. Una sottile ingerenza nell'attività del quotidiano, no? Sì, ma sa, gli editori di professione servono a qualcosa, cioè non è detto che il direttore del giornale abbia le capacità taumaturgiche, il potere divino di assumere tutte le decisioni. Lei ha raccontato questo episodio in risposta a domande sul fatto se dietro questa amicizia e questo aiuto che lei appunto riconosce aver avuto da Berlusconi ci sia anche la comune presenza all'interno delle liste della P2. Le liste della P2 sono un elenco di nomi scritti unilateralmente dal signor Licio Gelli, poi bisogna vedere quali sono le responsabilità individuali. Allora, sulla cosiddetta loggia massonica P2, a Roma ci sono stati due lunghi processi. Il procuratore della Repubblica non ha ritenuto di chiamarmi né come testimone né tantomeno come imputato. Quindi lei dice la sua posizione è assolutamente marginale. Io, mie responsabilità in queste vicende non ne ho, né io per la verità so cosa fosse la P2, quali fossero i suoi obiettivi, cioè ho la sensazione che sia in parte una grande montatura, ma questa è una mia opinione personale, perché io non ho mai visto un incontro. Io ho visto il signor Gelli soltanto nella sua stanza dell'albergo Excelsior, quando io andavo a chiedergli di convincere Roberto Calvi a concedere finanziamenti alla Rizzoli. Dopodiché io di piani, di progetti, di piani più o meno avversivi non ho mai sentito nulla. Gelli parla abbastanza di lei, però anche a proposito di un progetto editoriale di Costanzo, ad esempio, L'Occhio. Il progetto editoriale dell'Occhio doveva servire in qualche modo a compensare la chiusura al punto del Corriere d'Informazione. C'era una eccedenza di giornalisti che dovevano essere reimpiegati. Fu proposto questo progetto di quotidiano popolare. Io personalmente ero contrario, però si è andati avanti nell'esperimento. L'Occhio è stato tenuto in vita un anno, mi pare, e poi è stato chiuso. Qual è stata l'ultima volta che lei ha sentito, visto, incrociato Gelli? Io penso sarà almeno 30 anni fa. Ha saputo, ha sentito di queste sue presenze in trasmissioni televisive? No, io non ho mai visto le sue presenze televisive, perché francamente la cosa non mi fa né caldo né freddo. Ripensando al suo passato e anche a quegli anni molto convulsi della storia politica e imprenditoriale italiana, mi riferisco agli anni 80 soprattutto, c'è qualcosa che si rimprovera? Io sono costretto a rimproverarmi proprio di avere incontrato Gelli allo scopo di ottenere finanziamenti, posto che il signor Gelli mi è stato indicato dai segretari della Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Socialdemocratico, da Presidente del Consiglio, ministri. Un giorno io farò l'elenco di tutti quelli che mi hanno, come dire, consigliato, suggerito, invitato a parlare con il signor Gelli al fine di ottenere quei finanziamenti che le banche pubbliche non volevano concedere al gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Io allora, non sapendo nulla, perché naturalmente la vicenda P2 è poi scoppiata nell'81, io ho conosciuto Gelli mi pare nel 75-76, in quegli anni nessuno sapeva niente, quindi io non sapevo che questo signore poi potesse avere in mente di fare quello di cui poi successivamente è stato accusato. Io l'ho incontrato perché mi è stato detto: tu vuoi avere un intermediario che ti aiuti a trovare dei finanziamenti? Vai da quel signore. E io sono andato. Che poi le fece da tramite per Calvi. Che cosa? Mi fece da tramite per Calvi. Io ho ancora una sua lettera dove dice: sì, caro Torizzoli, io sono disponibile a fare il favore che mi ha chiesto, cioè a farmi da tramite con il Banco Ambrosiano, con il quale buoni rapporti, per agevolare i finanziamenti. Che cosa pensò il giorno in cui morì Roberto Calvi? Io posso dirle cosa provai quando ebbi notizia della sua scomparsa. Io sapevo in qualche modo che il Banco Ambrosiani aveva dei buchi di bilancio. L'allora direttore generale Roberto Rosone me ne aveva parlato, quindi io avevo poi informato anche diversi azionisti, al punto che Calvi, l'ultima volta che io l'ho visto, 7 aprile dell'82, mi disse: se lei continua a parlare male della mia banca e a dire che la mia banca è una banca che può finire in liquidazione coatta amministrativo, io la ritiro i finanziamenti, la metto per strada e non le darò mai più un soldo. L'ultima volta che io l'ho visto fu un incontro molto minaccioso da parte sua. Io d'altra parte, siccome consideravo Calvi un uomo che mi ha avversato, perché per esempio quando si è trattato, non so, di difendere Tassandin, uomo da tutti considerato pericoloso con interessi suoi privati nell'azienda la quale io mi sono battuto per allontanare Tassandin dalla Rizzoli, Calvi si è battuto invece per tenerlo. Sì, ma lei crede all'ipotesi del suicidio? Avendo conosciuto un po' Calvi, non credo all'ipotesi del suicidio, però se lei mi chiede chi è stato, non glielo so dire. Calvi era un uomo comunque misterioso, parlava in un codice incomprensibile. Penso che sia evidente dai riscontri che sono stati fatti che poi che non si sia ucciso. Chi l'abbia ucciso, proprio io non lo so.